I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Entriamo nella settimana che porta al referendum costituzionale di domenica prossima. All'esito del voto sono legati nel bene e nel male gli scenari del prossimo futuro. Vedremo che cosa accadrà al governo, che cosa accadrà ai tassi dei titoli di Stato, già da tempo un po' sotto pressione, con i rendimenti sul BTP decennale ormai quasi stabilmente sopra il 2%. Da qui al voto però ci sono molte altre cose da tenere d'occhio, a partire dalla manovra per il 2017, che dopo il voto di fiducia di venerdì scorso oggi otterrà il primo via libera dalla Camera, una manovra che vale intorno ai 27 miliardi di euro, di cui 12 in deficit. Parlando sempre di miliardi, possiamo aggiungere che siamo entrati nella consueta campagna fiscale di fine anno. Il primo appuntamento è per dopodomani, mercoledì 30. Si paga il secondo acconto delle imposte sui redditi, l'IRAP, la cedolare. In totale oltre 35 miliardi di euro, ai quali se ne aggiungeranno altri 32 per l'acconto IVA entro il 27 dicembre. Poi ci sono gli immobili, la tassa sulla prima casa non si paga più, ma sugli altri immobili ci sono ancora IMU e TASI, ed entro il 16 dicembre si versa la seconda rata del 2016, che vale ben 12 miliardi e 300 milioni. In totale fa oltre 80 miliardi di euro da qui a fine anno, che usciranno dalle tasche dei contribuenti, destinati alle casse dello Stato e dei comuni. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Che paese è un paese che non fa figli? E che Italia è quella dove neanche più le coppie di immigrati sembrano poter sfatare il mito della natalità zero? I dati Istat diffusi oggi sono l'ennesimo suono di campana. Nel 2015 sono stati iscritti all'anagrafe più di 485.000 bambini, però si tratta di 17.000 in meno rispetto all'anno precedente, a conferma quindi della tendenza alla diminuzione della natalità. Infatti sono 91.000 in meno rispetto al dato del 2008, ad esempio. Per lo più un fenomeno che riguarda le coppie con entrambi i genitori italiani, ma da ormai 2 anni a questa parte anche le coppie con un genitore non italiano fanno meno figli. Per la precisione 4.000 in meno nel 2015 rispetto all'anno precedente. Nel totale questo tipo di coppie pesa per il 27% dei figli complessivi, quindi ha un peso rilevante. Così come rilevante è quello dei figli nati da coppie dove entrambi i genitori non sono italiani. Sono calati anche loro di 3.000 unità e nel complesso anche il loro peso specifico è sceso a un po' meno del 15%. Le mamme straniere in Italia sono per lo più rumene, marocchine, albanesi, le 3 nazionalità più prolifiche nel nostro paese. 8 nati su 100 hanno una mamma con più di 40 anni, fatto che sposta in avanti l'età della maternità. Le mamme italiane hanno statisticamente ciascuna 1,3 figli in media, contro il dato più alto per le mamme provenienti dagli altri paesi, che invece ne hanno 1,9 a testa. Ma il motivo del rallentamento qual è? La crisi, naturalmente, l'impossibilità di poter realizzare progetti a lunga gittata. E per quanto riguarda le coppie di immigrati, però, c'è anche un upgrading nella loro condizione sociale che porta entrambi i genitori a lavorare, fatto che naturalmente riduce la possibilità di cura dei figli. Però torniamo alla domanda iniziale: che paese è un paese che non fa figli? E che paese è quello dove i figli che crescono vengono formati per farli lavorare quando si può all'estero? Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.